Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Grosso, piccolo, aquilino all'insù, rincagnato, storto o dritto? Buongiorno da Nicoletta. Oggi ci occupiamo del nostro naso, di questa appendice, di questa piccola proboscide, come possiamo definirla, non so. Comunque è sotto gli occhi di tutti e su cui anche quando non vorremmo cade l'occhio di chi ci sta davanti. E oggi il mio naso sarà per tutta l'ora sotto la lente di ingrandimento del dottor Andrea Franzetti, primario di otorino alla laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a tutti. Dottore, attorno al naso succedono un sacco di cose, noi andremo a scoprire nel corso della nostra trasmissione, ma prima con lei vorrei passare un po' in rassegna alcuni luoghi comuni. Intanto certo. Chiedo ai miei ascoltatori se vogliono intervenire, 800 24 0024, grazie per i complimenti che mi state facendo via sms al 349 238 6666. Grazie davvero. Allora, dottor Franzetti, andiamo a sentire alcuni dei luoghi comuni e lei mi racconta se sono veri, se sono falsi. Volentieri. Che cosa si può fare? Partiamo col primo. La voce nasale è un problema di adenoidi. Vero o falso? Allora, nei bambini è vero. Perché nei bambini gli adenoidi possono essere gonfi, ipertrofi, che noi diciamo quando sono così gonfie. Nell'adulto invece dopo i 12 anni gli adenoidi scompaiono naturalmente, si riducono e quindi una voce nasale è legata ad altri problemi di risonanza nasali, seniparanasali, ma non più agli adenoidi. Chi ha tanti raffreddori rischia di avere anche i polipi nasali. Vero o falso? No, questo è falso, nel senso che la poliposi nasce sempre per un meccanismo di tipo simile allergico. Sì. Se uno non ha una base di allergia o di reattività di un certo tipo, sicuramente non svilupperà, anche se fa tanti raffreddori, una poliposi. Ma cosa sono questi polipi? I polipi sostanzialmente sono delle raccolte di acqua sotto la mucosa nasale che portano a gonfiare la mucosa, gonfiare, sto banalizzando chiaramente la questione, e formano dei palloncini all'interno delle fosse nasali che occupano le cavità nasali, non fanno più girare l'aria, aumentano la secrezione liquida nel naso e quindi fanno far fatica a respirare, generano delle reattività come degli starnuti, non fanno più sentire gli odori perché l'aria non arriva più sulle cellule olfattorie e fanno parte di una occlusione delle cavità nasali. Mi sono forse fatta la diagnosi. 800 24 00 24 ci ha dato tanti segnali su cui riflettere. Andiamo al terzo luogo comune. Gli spray nasali danno assuefazione. Vero o falso? Allora, soltanto gli spray nasali che contengono i cosiddetti vasocostrittori, cioè quelli che ci danno l'effetto eclatante del naso libero appena li spruzziamo, quelli sì, danno assuefazione. Nel bugiardino. E ci sono dei nomi farmacologici che dicono che si riferiscono al vasocostrittore. Sono proprio dei nomi farmacologici. Tipo? Mi ne faccio un paio. Fenilefrina, però è difficile capire, sì. Ce ne sono vari tipi. Mentre invece gli spray nasali che contengono o dei corticosteroidi oppure degli antibiotici oppure delle altre sostanze, degli eccipienti di altro tipo che aiutano magari la fisiologia nasale, non danno mai assuefazione, anche se possono dare altri effetti collaterali. Le malattie nasali hanno a che fare anche con la dieta, vero o falso? Assolutamente vero. Assolutamente vero, ci racconti perché? Nel senso che tutte le mucose interne dell'organismo risentono della situazione metabolica e della situazione quindi alimentare dell'organismo in generale. Per cui il tipo di dieta, non stiamo parlando di allergie, ma proprio il tipo di dieta scorretta oppure non completa ci porta sicuramente a delle alterazioni di quelle piccole cellule che sono delle cellule sia che secernono muco all'interno del naso, sia che hanno delle ciglietta che si muovono e che servono ai movimenti del muco all'interno del naso, che possono andare in sofferenza, appesantirsi, lavorare di meno, secernere magari un liquido troppo mucoso o troppo liquido, piuttosto che muovere meno le ciglietta. Questo è lo stesso dinamismo che avviene più o meno nella mucosa intestinale, che pur essendo sempre mucosa è con delle caratteristiche che non sono identiche ma sono similari. Quindi se facciamo stare bene il nostro naso, facciamo stare bene anche l'intestino, no, in fondo. Di solito è l'inverso. Contrario. Se sta bene il sistema gastrointestinale, sta sicuramente bene anche meglio il nostro anche il naso. Andiamo. Il naso che cola è segno di allergia. Vero o falso? Ma il naso che cola di solito è segno di una reattività di tipo allergico. C'è da fare questa sottolineatura che le allergie, noi diciamo che ci sono delle allergie che sono allergie conosciute, noi possiamo testare certi alimenti oppure delle graminacee, dei polline, gli acari, e delle allergie che, per non dire sconosciute, noi chiamiamo atopiche. Mm. Nel senso, non si sa che cosa è allergico, ma il meccanismo è un meccanismo simile. Ecco. Abbiamo un ultimo luogo comune, Carmelo. Se il naso fa male, c'è una probabile sinusite. Vero o falso? Beh, di solito se il naso, si prende. Se il naso fa male o se le zone intorno al naso fanno male. Perché la sinusite è qualcosa che interessa quelli che noi chiamiamo i seni paranasali, che sono sulla fronte o sotto gli occhi a livello degli zigomi. E qui sicuramente c'è un sospetto di sinusite. Quando il naso fa male, può far male anche perché c'è solo un furuncolo. Certo. Andiamo da Renato, che ci chiama dalla provincia di Padova, 800 24 00 24. Renato, buongiorno e benvenuto. Ah, buongiorno e grazie di questa splendida occasione. In breve la mia storia, 50 anni, sono allergico ai pollini, sono stato operato 2 volte di polipi nasali. E quindi convivo con questa situazione, quindi ho muco abbondante, ovviamente maggiormente in primavera e in autunno. Vivo con l'antistaminico in tasca, per usare una descrizione abbastanza veritiera. Mi trovo però ad avere una cosa molto antipatica per me, che è quella di avere poco il fatto, se non addirittura assente, nella stragrande maggioranza dei mesi dell'anno. Quindi volevo sapere se c'erano dei rimedi a questo o se la mia era una semplice condanna e basta. Grazie Renato. Dottor Franzetti. Renato dice 2 cose molto importanti. La prima, che non è proprio la domanda che fa, ma ci testimonia che la poliposi è una malattia sistemica, perché lui ha detto: io sono un allergico e ho avuto la poliposi, quindi non è un problema solo del naso, ma purtroppo si manifesta nel naso l'allergia, perché è il punto in cui noi entriamo in contatto con l'ambiente. Certo, e mettiamo il naso nell'ambiente. Questo è un fattore importantissimo, per cui la poliposi non è semplicemente la cosa dobbiamo togliere i polipi, ma dobbiamo prima di tutto capire in che ambiente siamo, perché spesso le allergie possono essere condizionate non solo con la cura della persona, ma anche con, laddove è possibile, una cura dell'ambiente. Perché dovevo una risposta. Infatti, Renato. Il problema dell'olfatto invece è importante, nel senso che l'olfatto può averlo perso per 2 motivi o ridotto. Uno, se hai polipi ancora grossi, perché l'aria non arriva laddove deve arrivare, ma le cellule olfattorie funzionano. E quindi la situazione, noi diciamo che è reversibile, cioè può tornare a sentire gli odori. La seconda invece è che i polipi sono piccoli, ma le cellule sono andate incontro ad un'atrofia, cioè non funzionano più come dovrebbero. E allora a quel punto, purtroppo, è molto difficile che riprenda l'olfatto. Abbiamo Paolo che ci chiama da Pescara. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione. Io ho da sempre una strana ipotesi di... io quando respiro, respiro sempre con una narice sola. Sì. Se dormo, specialmente la notte, ho sempre occlusa la narice. Se io dormo di lato, la narice sinistra, per esempio, se dormo sul fianco sinistro, sarà occlusa. E si libera piano piano la narice sopra a destra. Così se lei cambia lato, e via. E apri e chiudi, basta girare la testa. Ma è proprio una cosa quasi sistematica, quasi. E da sempre non ho mai il coraggio o il tempo di andare da uno specialista. Allora chiediamo le dico, al dottor Franzetti. Le dico una cosa normale. Che può risolvere. Prima di tutto tranquillizzarla, perché questo è un fenomeno, che è un fenomeno fisiologico di tutti i nasi. Sì. Solo che in alcuni nasi è eccessivo, come quello del nostro amico. È legato ai turbinati, che sono dei palloncini, abbiamo già spiegato altre volte, che si gonfiano e si sgonfiano per regolare la fisiologia del naso. Sì. Questi, quando avviene questo, è possibile con degli interventi microinvasivi, con dei laser o con delle altre tecniche, senza tamponare il naso, andare a sgonfiarli in maniera permanente, in anestesia locale, quindi poco più che andare dal dentista, e senza assolutamente toccare nel setto nasale né fare altri interventi. La sintomatologia che ha descritto il nostro amico è proprio una sintomatologia che può essere risolta con un intervento di minima senza andare a fare interventi più aggressivi sul naso. Però intervento sempre per sì, risolvere, non ci sono rimedi, cuscino alto, cuscino basso, umidificare l'ambiente, fare lavaggi nasali prima di andare a letto. Vuol dire fare degli sforzi immani per ottenere un risultato minimo. Non parlo più. Ecco. Invece voglio salutare il dottor Mauro Mocci, che è medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno, dottore, buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. Allora, parlando di... mi sentiate bene, perché proprio in tema di raffreddamenti sono... Ma infatti io sono molto contenta che lei sia raffreddato, perché cade proprio a fagiolo. Esatto, senta, dottor... Dottor Mocci, invece noi dove fichiamo il naso? Nell'aria che respiriamo. Noi parliamo con lei di polveri ultrafini. Le catturiamo anche con il nostro bel nasino, che sia bello che sia brutto, respirando, insomma, le buttiamo giù. Certo. E le ricerche, tra l'altro, stanno indagando sugli effetti dell'inquinamento sulla salute generale. Sì, e purtroppo il naso è quello che ne soffre per primo, perché ovviamente se dobbiamo respirare, dovremmo obbligatoriamente respirare sempre con il naso anziché con la bocca. Il primo impatto, queste polveri ultrafini, ultrasottili, come vogliamo chiamarle, arrivano proprio lì. È lì che cominciano a fare i primi danni, perché queste polveri hanno su di loro non soltanto un polvere inerti, ma hanno dei metalli, veicolano frammenti di pollini, hanno sostanze chimiche, e quindi il primo punto di stop, di fermo, è proprio all'interno del naso. E lì cominciano i primi guai, quando l'aria è troppo inquinata. Anche le infiammazioni del naso sono dovute a queste sostanze altamente proinfiammatorie, per esempio l'arsenico, il nickel, sì, provocano irritazione. E allora diciamo che infiammando la mucosa preparano a quello che poi potrebbe essere un raffreddore o problemi allergici, e quindi preparano un po' il campo. Ma la cosa che si è vista di recente è che queste polveri, quelle ultra fini, riescono addirittura a superare, e qui non voglio allarmare le persone, però gli studi sono in questo senso, riescono a superare la barriera e arrivano attraverso il bulbo olfattorio, vanno addirittura fino al nostro cervello. Quindi l'inquinamento da queste polveri è qualcosa di preoccupante. Poi quelle che invece ingeriamo, che vanno a finire nei polmoni, vengono respirate e vanno in circolo, e quindi aumentano le patologie, ma che sono di carattere sia respiratorio che circolatorio. Quindi dobbiamo cercare sempre di stare in un ambiente il più possibile pulito. Difficile ormai, difficilissimo, sta diventando dappertutto, però ecco, qualcosa noi dobbiamo farlo assolutamente, perché altrimenti peggioreremo le nostre condizioni, ma soprattutto non le nostre, ma quelle dei nostri figli. Ecco, a proposito di figli, di bambini che vivono nelle grandi città, serve fare cambiare loro aria, con magari portarli, approfittando dei ponti, delle vacanze natalizie? Assolutamente sì, e soprattutto quando nel periodo invernale, che c'è la tendenza a rimanere chiusi dentro casa, ecco, questo non è una buona abitudine, perché rimanere chiusi dentro casa durante l'inverno lo si fa, purtroppo i fumatori lo fanno anche di più, perché fumano dentro casa. Quando ci sono i bambini o gli anziani non bisognerebbe fumare. Bisogna arieggiare la casa assolutamente, anche d'inverno, anche quando è freddo, perché la tentazione è di rimanere invece lì al calduccio, ma nelle ore migliori, che potrebbero essere quelle dove c'è meno inquinamento outdoor, cioè dove c'è meno inquinamento esterno, nelle prime ore del mattino, aprire le finestre e fare cambiare aria. Cambiare anche, se possibile, i filtri dell'aria, perché molti utilizzano oggi il riscaldamento a pompe d'aria, quindi con il climatizzatore. Far pulire i filtri, perché questi filtri durante il periodo estivo hanno lavorato per produrre aria fredda, hanno incamerato pollini, polveri, quindi se noi non li cambiamo rischiamo di farli entrare poi nell'ambiente. Quindi volevo chiedere al nostro dottor Franzetti, per chi invece ha un riscaldamento con il classico termosifone, al naso piace dormire un po' in un ambiente con una temperatura un pochino più fresca? Abbiamo bisogno di umidificare o deumidificare gli ambienti? Un tempo si mettevano le classiche vaschette nei termosifoni con l'acqua, per proprio perché sennò ai bambini ad esempio si seccava il naso. Dottor Franzetti. È il troppo caldo e il troppo secco danneggia il naso, questo in assoluto. Chiaramente non bisogna esagerare con l'umidificazione, però direi che tendenzialmente se l'ambiente non è troppo secco e troppo caldo è meglio. Al naso piace di più, ci sta meglio. Dottor Mocci? Sì, un'altra cosa che volevo dirvi, per quanto riguarda, ho sentito parlare prima di mancanza di odori, quindi l'anosmia, la cosiddetta anosmia o iposmia, sembrerebbe che in alcuni casi è dovuta proprio all'irritazione da sostanze chimiche che possono alterare i nervi a livello del bulbo. Un altro consiglio che mi sento di darvi è che spesso, come voi vedete in giro, la gente con le mascherine. Sì. Ecco, le mascherine purtroppo ancora ad oggi non hanno dato nessuna dimostrazione scientificamente valida di servire a qualche cosa. Servono a poco o a niente. Ma la cosa che si sta vedendo ultimamente, e non so su questo, ancora anche qui non abbiamo certezze, sono i filtri per il naso. Non so se sì. avete avuto occasione di vedere questi filtri per il naso. Ma qualcuno comincia a consigliare di mettere questi filtrini dentro il naso. Sì. Ora, non sappiamo bene che cosa sta succedendo, perché appunto la documentazione scientifica su questi presidi ancora non ce l'abbiamo. Però? Io direi in luoghi molto molto inquinati, dove c'è molta polvere. Un po' di protezione può aiutare. Potrebbero certo. aiutare, però ecco, insomma, però male non fanno. Prima di dare consigli aspettiamo qualche documentazione scientifica fondata che ci autorizzi a dire sì, possono servire a qualche cosa, però quindi sì. precauzione su tutto. Dottor Mocci, che cosa fa per il suo raffreddore? Vediamo. Io per il mio raffreddore faccio lavaggi con acqua, diciamo, soluzione fisiologica. Ed è quello che consiglio sempre ai miei pazienti, sì. perché è uno dei modi migliori per fare il lavaggio, lo diceva prima anche il professore, dovremmo avere questa abitudine, attenzione. Non solo quando abbiamo il raffreddore, ma esatto, farla come... soprattutto nei bambini, sì. la sera e al mattino lavare. È ovvio che serve a poco, perché come vi ho detto queste certo. sostanze vengono assorbite però... dal nostro organismo, se non altro servono a pulire un po', ecco, insomma, non risolviamo il problema, ma aiutiamo. E poi io sono ancora del parere bevande calde, e lo faccio e lo consiglio ai miei pazienti, che servono ad umidificare, perché il miglior fluidificante, il miglior umidificatore è il bere acqua e ad altre bevande calde possibilmente. Questo è quello che faccio fin quando è poi promosso il dottor Mocci, che guarirà presto, no? Assolutamente. Sì, poi quando sì. arrivano i problemi, allora dobbiamo ricorrere antibiotici, antinfiammatori, certo. è ovvio. Va bene, insomma, però per adesso si tratta di un banale raffreddore, lavaggi nasali, bevande calde, le tisane. Noi andiamo, perché devo salutarla, dottor Mocci, perché Carmelo Lauricella mi dice che tempo, così lo ringrazio e lo saluto. Grazie al dottor Mocci, buon raffreddore. Essere e benessere. Monsieur, il vostro naso è alquanto grande. Alquanto? Visto? È tutto qui. Beh, naturalmente. Oh no, giovin signore, voi mi deludete. Avreste potuto dire ben altre cose. Perché sprecare questa opportunità? Per esempio questo. Aggressivo. Signore, se quel naso fosse mio me lo farei amputare seduto a stante. Pratico. Come fate a bere con quel naso? Scommetto che avete un boccale su misura. Descrittivo. Ma è una rotta, un'erta, un capo. Un capo? Diciamo piuttosto che una penisola. Indiscreto. Cos'è quel ricettacolo? La scatola del rasoio o un portatore? E noi torniamo a parlare di naso. Stiamo ascoltando José Ferrer in Cyrano, naso. E abbiamo Rosanna che ci chiama dalla provincia di Treviso. Vediamo dove ficca il naso. Buongiorno Rosanna. Buongiorno. Senta, volevo fare una domanda al professore. Sì. Io soffro di ipertrofia ai turbinati, sì. mi sono già fatta vedere tutto quanto, però come il precedente ascoltatore mi si chiude il naso quando dormo. Volevo sapere se dovessi fare l'operazione, posso evitare di russare o è un'altra cosa? È un altro capitolo. Questo è si un prendono capitolo... due piccioni con una fava? Mica sempre, non sempre, non sempre, nel senso che per studiare il russamento bisogna fare proprio delle altre indagini, perché potremmo russare anche per altre parti del corpo che non è solo il naso. Invito Rosanna a andare nel nostro archivio, abbiamo dedicato molte puntate al russamento e dove potrà trovare molte indicazioni. Però, dottor Franzetti, questi turbinati perché danno così fastidio? Non si può in qualche modo evitare che si... Io un consiglio ce l'avrei, bravo, Nicoletta. Andare a vivere in Florida, Dubai, in Sudafrica, con l'otorino di fiducia. Con l'otorino di fiducia dobbiamo portare il dottor Franzetti. Perché il turbinato è proprio il primo punto che viene stimolato dall'ambiente, dall'aria, dal clima. E purtroppo no, il nostro ambiente sicuramente non li aiuta. Allora invece per la domanda di oggi vi aiuterà il dottor Franzetti, perché noi abbiamo scelto due domande, dovete rispondere a tutte e due, ma abbiamo pensato di darvi tre indicazioni. Quindi la prima domanda è: come si chiamano le pareti laterali delle narici? Il dottor Franzetti vi suggerisce tre possibili soluzioni. Vada, dottore. Allora, la soluzione numero uno potrebbe essere che si chiamano tetto. La soluzione numero due potrebbe essere che si chiamano guancette. Eh sì, perché? La soluzione numero tre potrebbe essere che si chiamano alari. Quindi, tetto, guancette o alari? Come si chiamano le pareti laterali delle narici? Ma dato che è abbastanza semplice, ne abbiamo aggiunto un'altra, perché il libro che riceverete oggi a casa è un libro bellissimo. Come si chiama la struttura che separa le due narici? Dottor Franzetti. Cioè quella che c'è in mezzo e che tocchiamo con due dita quando le infiliamo dentro nelle narici. Sì, cosa che non dovremmo fare. Allora, la risposta numero uno potrebbe chiamarsi ponte. La risposta numero due potrebbe chiamarsi columella. La risposta numero tre potrebbe chiamarsi gambetta. Ponte, columella, gambetta. Allora, 800 24 00 24 per ricevere a casa la storia del naso raccontata da Andrea Camilleri. E io vado subito da Francesca, che ci chiama da Roma. Buongiorno Francesca. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io mi sono rotta il naso a circa 12 anni. Sì. Sono passati 20 anni, il mio naso ha una sola narice in funzione praticamente. Chiaramente la situazione si è un po' trascinata, c'è chi mi dice di operarsi e riportare la situazione alla normalità e c'è chi mi dice invece che l'operazione poi in fondo non va sempre bene, tanto vale, una ce l'ho, quindi vedermela così. Volevo un consiglio. Grazie. Ma lei che cosa vorrebbe fare, Francesca? Io vorrei respirare anche di notte o d'estate, sì, con tutte e due le narici, non sempre solo con una e talvolta con nessuna, perché le narici funzionano che... alternate. Certo. Quindi... Dottor Franzetti, difficile dare un consiglio al telefono, prima, però dice... La Francesca prima cosa che direi, non proprio per Francesca, ma per tutti quelli che gli succede, quando si ha una frattura nasale, se noi interveniamo nell'immediato, cioè entro 8-10 giorni prima che si consolidi il danno della frattura, l'intervento che facciamo è un intervento minimale e vale sempre la pena farlo. Invece, quando la frattura è già consolidata, cioè siamo a distanza di tempo, bisogna fare un intervento sicuramente un pochino più aggressivo. Chiedere a un chirurgo se vale la pena operarsi... E come? E invitarlo a nozze? Secondo me è chiaro che vale la pena operarsi per migliorare la respirazione. Siccome parliamo di un fatto funzionale, è la persona che deve decidere quanto realmente ha un disturbo e quanto questa... la disturba nella vita quotidiana, però io direi di sì. Allora, dottor Franzetti, vogliamo anche fare un saltino alle terme, che andiamo. Mi piace molto, ecco, soprattutto per persone che hanno raffreddori ricorrenti, riniti, allergie, penso agli adulti, penso anche ai bambini. Le terme sono veramente un toccasana, perché è proprio la medicina termale, è quella, la medicina tradizionale dell'Occidente. Ci sono dei trattamenti che sono particolarmente efficaci, delle acque che sono indicate per un disturbo piuttosto che un altro. Facciamo proprio un piccolo focus, portiamo il naso alle terme. Dove fichi il naso? Alle terme. Andiamo. Secondo me nelle terme ci sono due tipi di grosse cure che possiamo fare al naso per il benessere del naso, non per curare le malattie, questo è importante. Le due grosse cure sono quelle che facciamo nel naso e quelle che facciamo nell'ambiente intorno al naso. Sì. Quelle che facciamo nel naso sono, vanno dai lavaggi nasali con le acque anche di tipo termale, che sono di vario tipo, ci sono le sulfure, le salse bromoiodiche eccetera, fino alle inalazioni, le umidificazioni. Oppure gli ambienti, che possono essere gli ambienti come determinate camere, dove c'è un'umidità, dove c'è invece del caldo secco, dove ci sono invece le sostanze che aiutano la fisiologia del naso. Per esempio, una cosa che sta prendendo molto la moda in questo periodo, non solo alle terme ma anche in città, sono quelle che vengono chiamate, non so se ne hai sentito parlare, le camere di sale. Sì. Che sicuramente aiutano l'ambiente circostante al naso a migliorare la situazione fisiologica. Sono delle stanze, raccontiamole brevemente, sono delle stanze in cui... Sono delle stanze che praticamente hanno tutte le pareti, tutto è un ambiente dove è contenuto del sale e questo sale viene trattato e emana una sostanza nell'aria che migliora la situazione delle mucose nasali e delle mucose delle alte vie respiratorie. E allora, diciamo, non ha un'efficacia documentata scientificamente, però fa parte di quelle cose che nell'evidenza clinica di tutti i giorni danno un beneficio soprattutto ai bambini, per esempio. Quindi una mamma si porta il suo bambino nella stanza del sale. Anche quello è importante. Soprattutto, cioè, se è un bambino che è un po' gracilino, ha raffreddore, previene, non si sa. Comunque fa bene. Sicuramente migliora la fisiologia nasale. Mario, buongiorno, da Torino. Da Torino, sì. Sento malissimo purtroppo perché sono in macchina, quindi vi chiedo. Mario, scusate. Io lo dico, lei deve darci le due risposte. Sì. Io direi guancette la prima, la seconda non ricordo più la... Era columella, ponte, gambetta. Direi ponte. No, mi dispiace. Mario, mi dispiace, però guancette era carino, eh? Sì, lo so. Io le chiamerò guancette. Grazie a Mario da Torino. Valerio da Milano invece, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda. Sì. Devo anche rispondere alle... No. Noi siamo liberi, noi qua raccontiamo un po', ci prendiamo, no, un po' il tempo per parlare di benessere, intervenite voi, i nostri ospiti danno consigli, rispondete alle domande, le fate un po' quello che volete. Intanto buongiorno a tutti e grazie. La mia domanda era questa: io sono soggetto spessissimo a dei raffreddori e qui c'è sicuramente una parte allergica, io non ho mai fatto in tanti anni le prove. Sì, però lei lo sospetta. È una cosa che dovrò fare, però sente. Al tempo stesso ci sono anche dei raffreddori che scaturiscono dal semplice soffiarsi il naso e parto proprio a raffica, starnuti anche violenti e ripetuti in modo molto veloce. E poi o tutto si placa lì oppure sfocia in un raffreddore invece che mi tiene con il naso chiuso per due giorni. E quindi volevo capire se le cose potrebbe essere un po' mio fratello, perché anch'io ho questi 103 starnuti, poi se finiscono lì è andata bene, se no vuol dire che parte il raffreddore, dove devo tenermelo per due o tre giorni, non fare nulla perché poi passa da solo, ma è così. E invece dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo, perché c'è anche un modo per soffiarsi il naso, voi lo conoscete? Essere e benessere. 100 starnuti, ma noi possiamo fermarli, vero? Eh sì, è perché lo starnuto nasce perché c'è un'irritazione della mucosa che fa partire uno stimolo, si chiama arco riflesso, uno stimolo nervoso perché uno starnutisce. Per cui bisogna ridargli uno stimolo meccanico al naso, stringendo il naso in modo particolare verso la punta. Quindi afferriamo la punta, la solleviamo anche un po', mi aveva lei detto, sì, un giorno. Leggermente. Di solito il raffreddore, lo starnuto, smette. Smette, sì. Però spesso quando succede, allora intanto dobbiamo dire come ci si soffia il naso, mai a pieni polmoni, tutte e due le narici insieme, perché questo dà una vibrazione che non dico il 100%, ma al 90% fa partire uno starnuto. Sì. Ma prima una fossa nasale libera, poi l'altra fossa nasale libera, chiudendone alternativamente una e l'altra. E poi l'altra cosa che volevo dire è che il soffiare il naso è un fattore culturale che noi abbiamo, perché noi siamo fatti perché il muco vada indietro. Veramente? Questo? Siamo fatti per tirar su col naso, per fare così. Infatti i bambini tirano su tutti col naso e la mamma dice: non tirare su col naso. No, che ti viene il catarro, ti viene la tosse. È giusto soffiare il naso, è giusto. Però fisiologicamente tutto il muco scola dietro. Quello che noi facciamo non è nient'altro che creare un vortice inverso a quello che è la fisiologia nasale. E lo facciamo per una consuetudine anche culturale, perché non è che possiamo andare in giro tutti a tirare su col naso. Però è giusto sapere anche che il flusso nasale è verso il dietro. Invece, quando succede che lo starnuto è troppo prolungato, sempre bisogna pensare che ci possa essere qualcosa che stimola anche i seni paranasali, e allora andare a studiare se c'è qualche problemino di tipo sinusitico dietro. Giovanni ci chiama da Bari. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno dottore. È un piacere per me rispondere alla domanda che avete fatto per il quiz. Sì. Ma non si può suggerire un po', no? No, no, pareti laterali delle narici e come si chiama la struttura che separa le due narici? Due risposte. Allora, direi alari e ponte. Allora, è giusta per metà. Dovrei farle recapitare a casa mezzo libro. Giovanni, mi dispiace. Antonio da Milano, buongiorno. Bisogna pensare che i medici non sono architetti. Ecco, pensate che i medici sono architetti. Non sono architetti. Antonio da Milano, sì, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti intanto a lei e alla trasmissione. Grazie. E al dottore. Ascolti una domanda. Io ho la parte centrale, che adesso non ho ancora capito come si chiama, che è piegata verso la aletta, se si chiama così, e quindi sulla parte destra. Quindi ho solo una narice libera, e di notte questo spesso crea dei problemi, perché certo, rimane spesso occlusa. Quindi volevo capire se è operabile, o se è un problema di turbinati, o se si può fare altro. Un consiglio al dottore. Io a questo punto, se lui lavora al Bassini, mi beh, ma adesso questo, perché dice tanto che lo sento la voce ed è comodo, magari. Allora, dottor Franzetti. Allora, intanto non è un trucco per farmi dire il nome della parte che separa. Ecco, non ci cade. No, se è così come ha detto, è operabile, è l'unica soluzione chirurgica. Andiamo a sentire invece Alessandro, che ci chiama da Roma. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, volevo darvi un saluto. Sì. Farvi i complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo appunto fare una domanda al dottor Franzetti, in quanto io sono stato operato lo scorso anno ai turbinati e ai seni nasali. Tra l'altro, ecco, l'operazione è andata benissimo, infatti ho riacquistato. Sta bene, quindi lei la consiglia, Alessandro? Io la consiglio, sì. Premetto che per me c'era stato un trauma da 15-16 anni. Quindi insomma era una storia un po' vecchia. Alessandro, può venire alla domanda? Sì, ecco, la domanda è questa. Dopo l'intervento, da circa, diciamo, io mi sono operato un anno fa, soffro continuamente di mal di gola. E volevo sapere se è colpa dell'intervento. Sa che comunque uno le pensa tutte, perché magari adesso respira troppo bene. Può succedere. Veramente, l'ho buttata lì così. Entra troppa aria e la gola si infiamma. Perché se sono stati decongestionati troppo i turbinati, uno respira troppo bene e l'aria non viene umidificata. Ha visto? Quindi questa è una eventuale controindicazione. Va considerato, eventualmente trattato. Allora, voi avete mai sentito parlare di perfluorati, ftalati, bisfenolo A? Bene, questi sono interferenti endocrini. A proposito di naso, queste sono sostanze presenti nell'ambiente, ma anche negli alimenti e negli oggetti della vita quotidiana, che possono, pensate, alterare l'equilibrio dei sistemi ormonali, sia nelle specie animali che nell'uomo, mettendo a rischio funzioni cruciali della vita, come lo sviluppo e la fertilità. Ne parliamo con la professoressa Donatella Caserta, del Dipartimento della Salute della Donna e Medicina Territoriale dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professoressa Caserta, benvenuta. Buongiorno a lei. Professoressa, allora, a proposito di fica naso, voi siete andati a misurare gli effetti di queste sostanze presenti nell'ambiente per capire il loro possibile impatto sulla salute. Quali sono queste sostanze? Hanno dei nomi molto difficili, quasi impronunciabili, e dove si trovano? Perfluorati, ftalati, bisfenolo A? Le sostanze sono perfluorati, ftalati ed il bisfenolo A. I perfluorati sono presenti in isolanti, per esempio tappezzerie, detersivi, insetticidi, presidi odontotecnici. Gli ftalati invece sono delle sostanze che rendono flessibili le plastiche e che sono presenti per esempio negli imballaggi anche di alcuni alimenti, nei giocattoli per l'infanzia, in alcuni dispositivi medici, e infine il bisfenolo A, che è presente in alcune plastiche. Voi, facendo questa ricerca su soggetti sani, vero? Uh-huh. Avete trovato la presenza di queste sostanze, avete visto che hanno una relazione con alcune patologie endocrine. Per esempio, noi abbiamo fatto un confronto tra pazienti con problemi di fertilità e pazienti con invece una vita riproduttiva assolutamente normale, e abbiamo visto che queste sostanze sono maggiormente presenti in una percentuale significativa nelle coppie con problemi di fertilità, soprattutto tra le donne pazienti per esempio affette dalla malattia endometriosica. Ecco, professoressa Caserta, questa è una notizia, riprenderemo poi l'approfondimento. Intanto dalla regia mi dicono che un'ascoltatrice ha risposto giusto, ci metteremo in contatto. Essere e benessere.